Vogliate infine ascoltare Sentiero, canta Iula De Palma accompagnata dal Sestetto Azzurro diretto da Alberto Semprini. C'è più sole e dal mio canto risponde triste un usignolo. Sentiero, piccola strada dei miei sogni, io son qui nel tramonto. Che mi dai l'appuntamento se il mio amore non c'è. Tu che conosci il mio tormento, sentiero, l'ultima rondine al suo nido. Canta l'usignolo, il cielo s'oscurò, il vento siepe ed alberi schiantò, io rivedo l'ombra sua, ma illusione è fantasia, dove sei, passione mia? Sentiero, piccola strada dei miei sogni, tornerà, ma ho paura che il cuore suo sia prigioniero d'un bugiardo amore. No, dimmi tu che non è vero. Piangi tu e piango anch'io. Sentiero, le nostre lacrime son gemme su una strada fiorita. Felici sempre nella vita, ci vedrai passare, o nostro piccolo sentiero. Il cielo è pien di sole e lieto canto.